Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 in FM, lo streaming per ascoltarci con un computer è www.ondarossa.info. Un saluto particolare di cuore da questa voce va a tutti coloro, a tutte coloro sono private in questo momento della loro libertà personale. Prima di cominciare la trasmissione e di parlare del tema della puntata di oggi, voglio riflettere con voi sulla notizia che oggi alcuni giornali hanno dato. Il giornalista inglese Mark Covell ha rifiutato l'indennizzo offerto a lui dallo Stato, che appunto gli ha offerto e ha offerto anche ad altri, dopo essere stato pestato e reso in fin di vita durante il pestaggio alla scuola Diaz durante il G8 del 2001. Come lui, altri hanno subito le stesse violenze ad opera delle forze dell'ordine e oggi, come molti compagni, si trovano in carcere con l'accusa di devastazione e saccheggio e stanno scontando pene pesantissime. Il fatto che Cowell abbia rifiutato di accettare la somma in questione, che si tratta di pochi spiccioli in confronto a quello che ha dovuto subire, ci dovrebbe fare riflettere sul fatto che dignità e onestà intellettuale e diritti e libertà non hanno prezzo e che se un prezzo dovrà essere pagato lo sarà solo quando il reato di tortura sarà riconosciuto tale in questo paese e quando gli assassini e i servi dello Stato in divisa, autori di violenze disumane e feroci, pagheranno per una volta per tutte per i loro crimini e per le loro abusi di potere. E questo è per iniziare la trasmissione di oggi, che è su un grande della musica, David Bowie, morto pochi giorni fa, il 10 gennaio 2016, nato a Londra l'8 gennaio 1947, attivo dalla metà degli anni 60. David Bowie ha attraversato 5 decenni di musica rock, reinventando nel tempo se stesso e la propria immagine e creando numerosi alter ego come Ziggy Stardust, Halloween Jack, Nathan Adler e The Thin White Duke, il Duca Bianco. Con quasi un disco all'anno, è passato dall'elettronica attraverso il glam rock, il soul e il crowd rock. David Bowie non è mai stato uguale a se stesso e ha lasciato tracce che hanno influenzato moltissimi artisti. La sua biografia è lunghissima e racchiude un numero immenso di esperienze. La persona, l'uomo dalle mille facciate durante la sua vita, si è arricchito grazie ai suoi interessi e all'amore per la letteratura, per il teatro, per l'arte e per il cinema, diventando una personalità sensibile e piena di sfaccettature che lo hanno portato a essere uno e tutto allo stesso tempo. David Bowie ha recitato in varie pellicole, dall'horror Miriam si sveglia a mezzanotte al Fantasy Labyrinth, passando per Furio Basquiat e Fuoco cammina con me di Lynch. E oltre alla sua carriera di attore, il Duca Bianco ha prestato decine di brani per le soundtrack di film di ogni genere, eppure per la title track di Black Star è stata utilizzata per una serie TV qualche tempo fa. Alcuni dei brani usati all'interno delle pellicole più famose ve li riproponiamo, sono i più belli, i più famosi, forse anche un po' banali, però fanno parte non solo di colonne sonore importanti, ma della colonna sonora, almeno per quanto mi riguarda, della mia vita. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control. E questa era la bellissima Space Oddity di David Bowie, ovviamente, brano meraviglioso scritto nel 69 e con una sonorità, una struttura decisamente all'avanguardia per allora. E poi ne ha fatto una, ripubblicato una versione nel 75 e arrivò prima in classifica. Dice David di questo brano che tutti pensano che sia ispirato a, ovviamente, il 69, all'atterraggio all'uomo sulla luna. In realtà lui invece si è ispirato al film 2001 Odissea nello spazio, che ha appena visto e che gli ha dato tutta l'ispirazione. E poi dice anche un'altra cosa, che questo brano parla di solitudine, cioè del sentirsi soli in generale e della solitudine che può avere un astronauta a migliaia di chilometri dalla Terra. È anche un uomo all'interno, proprio sulla Terra, la solitudine che si può sentire sulla Terra in mezzo a un deserto di persone, no? Certo. E a proposito di spazio e di Terra, la copertina di questa settimana l'abbiamo dedicata a lui, da una foto di scena dell'uomo che cadde sulla Terra. Di questo brano c'è anche da dire che ne ha fatta una versione un astronauta sulle ILS, sulla stazione internazionale, recentemente, Chris Hadfield, e devo dire, a me piace, è una bella versione fatta dalla chitarra, proprio in assenza di gravità, e quindi c'ha un suo perché. E poi anche un'altra curiosità, forse un po' meno interessante, che esiste una versione, come di tutti quei brani allora ne hanno fatto una versione italiana, questa è di Mogol e si chiama Ragazzo solo, ragazza sola, che è molto bella ed è stata usata da Bernardo Bertolucci nel film Io e te. E invece la Space Oddity, che insomma, che ci è venuta in mente per un film molto leggero diretto da Ben Stiller, il suo quinto film del 2013, The Secret Life of Walter Mitty, scritto da tratto dal racconto scritto da James Tarber del 39, un film, è un remake appunto del Sogni Proibiti del 47, che di cui è stato fatto anche un remake italiano, forse anche più divertente di quello di Ben Stiller, interpretato da Paolo Villaggio. Beh, insomma, comunque in questo film la versione di Space Oddity, una versione acustica, solo chitarra e voce di Kristen Wiig, che viene interrotta soltanto nel ritornello dal vero David Bowie, e che sembra proprio come se i due duettassero durante questo brano, il che non è assolutamente vero, ma insomma nel film sembra proprio così. C'è un'altra curiosità: nel brano David introduce uno strumento particolare che è lo stilofono, che è uno strumento musicale elettronico, è formato da una tastiera metallica e controllata da una piccola penna elettronica. Sì, e inoltre stavo leggendo, la storia dei videoclip di David Bowie è straordinaria e meriterebbe una puntata a parte, non solo per parlare dei registi che ne hanno curato appunto la regia, ma proprio per tutte le raffinatezze che comprendono appunto nella loro realizzazione. Questo videoclip, pensate, costò ai tempi meno di $350 e fu una visione straordinaria per l'epoca, perché insomma c'era un David Bowie totalmente surreale che appariva. Andatevelo a vedere su YouTube perché è veramente molto figo. Search more for the land. thousand years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Questo bellissimo brano, ovviamente anche questo lo definisci, non si può che non definire bellissimo, The Man Who Sold the World, è sempre scritta da David Bowie, eseguita da David Bowie, compare nel terzo disco, nel 70, sì, esatto. E di questo brano sono state fatte varie cover, ovviamente la più famosa di tutte è quella di Nirvana. Oh, io posso dire questa cosa, mi vergogno un po', però la devo dire. Io ho scoperto 10 giorni fa che questa non era una canzone di Nirvana, ma di David Bowie. Me l'ha fatta scoprire un ascoltatore della radio, Mariano, che mi ha anche poi non mi ha più rivolto la parola durante tutta la serata, perché era sconvolto la mia ignoranza. Ma che posso dire, cioè, sono contenta di aver scoperto che invece è un brano meraviglioso di Bowie, non me l'aspettavo. Questo brano si può dire che rispetto ad altri è molto intimo, nelle parole si capisce il tormento che viveva David Bowie in quel periodo per vari motivi, gli era morto il padre, ma anche c'è un riferimento alla salute mentale, al fatto che il fratello Terry Burns stesse molto male a livello di salute mentale. Sì, diciamo. Era malato, era schizofrenico e lui era legatissimo a questo fratello che aveva problemi molto, molto profondi, e nel quale lui probabilmente si ritrovava, anche se forse Bowie era più sano di lui rispetto a lui, ma nel quale poi vedeva anche in fondo la parte più doppia, più complicata, più complessa di se stesso, no? E infatti racconta: vedevo piuttosto sovente il mio fratellastro in quel periodo e credo che ciò ovviamente abbia avuto un certo effetto su di me. Credo che in un certo senso il suo spirito aleggi in gran parte di quel materiale. Conoscendo la fragile stabilità mentale della mia famiglia in generale, nel ramo materno in particolare, penso che fossi terribilmente preoccupato di stabilire esattamente quale fosse la mia condizione mentale e dove potesse condurmi. Still. don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead end streets. And every time I thought I had got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me. Ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. Questo è un grande pezzo pop fondamentale per la carriera di David Bowie, ovviamente stiamo parlando di Changes. Ci sono state molte interpretazioni in questo brano, ovviamente lui parla dei cambiamenti, cioè dei cambiamenti generali dell'esistenza di ogni individuo. E c'è nel testo c'è un punto dove dice: and every time I thought I'd made it, it seemed that the taste was not so sweet. Ogni volta che ho pensato di avercela fatta, mi sembra che il gusto non fosse così dolce. Una cosa bella di questo brano è che alla fine si sente il sassofono proprio suonato da David Bowie, che infatti lui inizia proprio studiando il sassofono e ha come lezione un grande sassofonista, Ronnie Ross, che è un suo idolo, e che il quale Ronnie Ross è quello che fa il sassofono su Walk on the Wild Side di Lou Reed. Niente proprio di meno che. E questo invece, questo pezzo noi lo abbiamo abbinato a un film divertente, un film di animazione, Shrek 2 del 2004. Si trova al 30° posto nella lista dei film con maggiori incassi nella storia del cinema e al 6° posto dei film d'animazione di maggiori incasso nella storia del cinema del mondo. e non solo americano. Le voci americane dei doppiatori sono Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy. Quelle italiane non ve le diciamo perché non ci interessano. Ed è questo pezzo viene riregistrato da Bowie stesso nel 2004 in duetto con la songwriter australiana Butterfly Boucher e viene inserita nella soundtrack del film d'animazione appunto Shrek e fa da sottofondo a una divertente sequenza della pellicola in cui i versi riflettono la trasformazione dell'orco Shrek in un bel imbusto umano e del suo zucchino in un impettito destrero banco. I trillini si sprecano dopo questi pezzi, uno più bello dell'altro. Un saluto in particolare a Valerio che è all'ascolta a Ostia e a tutti gli ascoltatori, buon ascolto, continuiamo con David Bowie. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break? God-given ass, he took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind, like a leather messiah. When the kids had killed a man, questa era Ziggy Stardust, sempre di David Bowie. Uscito, è la nona traccia dell'album omonimo mitico, uscito nel 78 72 e... ah ok, scusa. E l'idea di Ziggy, che è un alter ego di David Bowie, uno dei tanti, nasce nella mente onirica di Bowie come se volesse appunto trasformare se stesso con un nuovo sé, e grazie a un aiuto marziano diventa l'ultima rockstar di un mondo sull'orlo dell'apocalisse. E in un'intervista sulla rivista Rolling Stones, David racconta che, contrariamente all'opinione... No, questo lo voglio dire. Sai chi lo intervistava sulla rivista Rolling Stones? William Burroughs. Esattamente. E pensa che proprio 10 giorni fa ho ricomprato un'edizione di La Scimmia sulla... Adesso questo non ve ne frega niente, però lo voglio dire perché per niente succede casualmente nella vita. Ho ricomprato un'edizione della Scimmia sulla schiena perché la stavo cercando nella mia libreria e non la trovo, e quindi l'ho ricomprata, e poi vedi che tutto torna nella vita. Giusto. E comunque dice, contrariamente all'opinione comune, dice David Bowie a William Burroughs, che Ziggy non è un extraterrestre ma un umano che entra in contatto con gli extraterrestri attraverso la radio, e scambiando con loro i messaggi ha rivelazioni spirituali, adatta sulla Terra lui un ruolo messianico. Sì, che salvifico, no? Che poi avrebbe potuto salvare questa umanità sull'orlo dell'apocalisse, un po' come siamo adesso noi tutti. Quindi la radio può far incontrare con gli alieni. Sì, sì, sì. Soprattutto sì. Questa radio, soprattutto Radio Onda Rossa. E Ziggy Stardust si può dire che è l'emblema della rock star. Lui, come lo definisce Bowie, un cantante rock di plastica, e che con la sua ascesa e la sua caduta ripercorre idealmente la parabola della celebrità, dietro la quale si nascondono l'insicurezza e la fragilità dell'artista, e quindi temi che ricorrono nelle canzoni di Bowie. Sì, il brano appunto descrive l'ascesa e la caduta della superstar protagonista della storia, con un testo ricco di allusioni, e tantissimi sono i riferimenti dati alle evocazioni nei versi della canzone. Ma nonostante gli sforzi dei critici e degli esperti studiosi di Bowie, resta impossibile attribuire contorni precisi al personaggio di Ziggy Stardust, che forse incarna semplicemente un coacervo di archetipi rock, secondo una dichiarazione data da Bowie, datata nel 76, pensando al rocker inglese Vince Taylor, ma anche ad altri riferimenti come Jimi Hendrix, Wade and Gilly per la sezione e per molti molti altri, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Lou Reed, Iggy Pop. Beh, insomma, si sa che i brani di David Bowie sono criptici e pieni di mistero, e questo è uno di questi. Il film che abbiamo mi viene da ridere perché veramente ci abbiamo dato il peggio di noi stessi oggi con l'associazione brani film, io ho dato il peggio di me stessa, effettivamente è tutta colpa mia, è lo spaccacuori, ma io l'ho voluto mettere per forza, insomma, perché è un brutto film. Non lo conosco. Ma è perché, certo che non lo conosci, ma sarebbe un grave che tu lo conoscessi. È un bruttissimo film, fatto però da due grandi registi, Bobby e Peter Farrelly, che sono quelli, per capirci, di Tutti pazzi per Mary, Scemo più scemo, Io me Irene, un po' come il nostro Checco Zalone, che da queste frequenze forse non lo dovrei neanche nominare. Ma quindi l'originale, il titolo originale è Heartbreaker? Sì, ah, sì. Okay. E che ha una trama sottilissima e molto raffinata, che è quella appunto di questo protagonista che si chiama Eddie, mi pare, che si innamora continuamente e trova, finisce di innamorarsi di questa Laila. A me piace molto questa storia di lei, che non è la protagonista, ma mi piace, e lo circuisce facendogli credere ciò che non è, e si rivela invece durante il loro viaggio di nozze in Messico un carattere difficile, pieno di difetti, tra cui una flautulenza esibita spudoratamente, la maniacale voglia di sesso violento e il setto nasale deviato a causa di uso di cocaina continuo. Mi è divertita troppo questa sinossi, e quindi l'ho voluto buttare là, anche se il film è una cacata. DJ, that was crazy, caused me to hide. is a star. E avete ascoltato Starman di sempre di David Bowie, un brano del 72 che appunto sta sempre nell'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. E quindi il ovviamente torna al concetto e rimane, diciamo, le parole parlano proprio di un come del brano che abbiamo ascoltato prima, cioè di un uomo delle stelle che attraverso la radio entra in contatto con i giovani in una terra ormai condannata, promettendo salvezza del pianeta. E quindi l'interpretazione di questo brano lo vuole come una specie un accenno alla seconda venuta di Cristo, una sorta di annuncio messianico che rappresenta un creatore extraterrestre che ha già visitato la Terra in epoche passate e che considera l'idea di tornare per controllarle come la vita umana sta procedendo. E il film che abbiamo pensato di unire a questa traccia è un bellissimo film, a controllo di quello di prima, The Life Aquatic with Steve Zissou di Wes Anderson del 2004. E la colonna sonora di questo film costituisce un gigantesco omaggio a David Bowie, perché nel corso del film infatti si sentono ben 11 brani del primo periodo della produzione di Bowie, eseguiti però in versione acustica dal cantante brasiliano Seu Jorge, non so, non parlo portoghese non, bene. Non parliamo portoghese, non ci proviamo. E le musiche composte appositamente per il film sono firmate da un grande autore di colonne sonore che è Mark Mothersbaugh, membro del gruppo musicale dei Devo, e hanno suoni Divo e hanno suoni e timbri caratteristici di strumenti elettronici Casio, assai usati negli anni '80. Sono presenti anche delle versioni originali di altri artisti, ad esempio Search and Destroy di Iggy Pop and the Stooges, e un pezzo di John Baez e altri pezzi molto interessanti. Dovremmo pensarci a questa colonna sonora, vero? Beh, guarda, i pezzi di Dave Bowie in chitarra acustica in brasiliano sono qualcosa di sensazionale. E il film è veramente Wes Anderson alla quintessenza. E magari, se c'è tempo, magari ne spariamo uno alla fine, David? Perché no? Perché no? Vediamo un po' come. Intanto volevamo fare dei saluti. Saluti, certo, ci sono arrivati i contributi SMS di Elena e di Leone che non lo vedo da un sacco di tempo. Ma che è sempre all'ascolto su queste frequenze. Leone, dobbiamo organizzare qualcosa con Ottavia, quindi prossimamente ci vedremo. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Oh man, reading up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Isn't the Ok, questa è bellissima, Life on Mars, sempre di David Bowie, che lui, che è uscita nel 70, nel 71 e poi nel 73 come 45 giri, ma lui l'ha nata praticamente nel 68, quando viene dato a David Bowie il compito di adattare il testo di una canzone francese di Claude François intitolata Comme d'habitude. E qualche anno dopo appunto prende vita con gli accordi di My Way, e così Bowie rese omaggio a questo pezzo al suo interprete. Infatti nelle note di copertina di Hunky Dory, che è il disco nel quale compare questo brano, accanto al titolo della canzone c'è la scritta autografa Inspired by Frankie, appunto questo Claude François. E questo pezzo, che a me sembra quasi una ninna nanna, no? Invece non ha niente della ninna nanna, perché è un pezzo veramente tristissimo, no? In cui ci si chiede, in cui la protagonista del brano si chiede se esista un posto dove si può stare bene, dove si possono lasciare dietro le spalle i dolori, le frustrazioni, le illusioni, le paure, le insicurezze, i tradimenti che a volte ci accompagnano e che ci disturbano nel vero senso della parola. E quello che si chiede appunto alla protagonista e forse esiste, si risponde, forse esiste su Marte, e quindi che è inquietante, perché vuol dire che su questa terra non esiste un posto dove si può stare veramente tranquilli. Però è un insieme di metafore, di riflessioni che David Bowie, che è una personalità geniale e sensibilissima, si fa spesso durante i suoi testi. E per esempio a me viene subito in mente l'immagine di Mickey Mouse has grown up a cow. Mickey Mouse è cresciuto, è diventato una mucca, no? E questa immagine, per esempio, è un riferimento politico di denuncia chiara e tonda all'imperialismo americano. E all'interno di questo brano ce ne sono molti, molti, molti altri. Sì, è una curiosità. Ne sono state fatte molte cover di questo brano, in particolare c'è una cover fatta da Barbara Streisand che David Bowie ha definito terribilmente brutta, e non ve la faremo mai ascoltare. E invece il film che abbiamo abbinato a questo brano è un film piccolo piccolo piccolo di un regista italiano che si chiama La criptonite nella borsa, un film del 2011. Ivan Cotroneo era il regista, e era la storia di un bambino, insomma, con una famiglia complicata, e la colonna sonora era anche interessante, perché oltre a David Bowie c'era un bel pezzo dei Planet Funk, un pezzo di Mina e altre cose, insomma. E lui è un bravo regista, poi si è dedicato soprattutto alla fiction, ma insomma, ma ormai ha sfondato, sì. Questa è una delle versioni, belle versioni del brano Rebel Rebel di David Bowie, che è un singolo, esce nel 74, è un singolo che anticipa il disco Diamond Dogs, ispirato da Ragazzi Selvaggi di William Burroughs e da 1984 di Orwell. E chi possiede il disco sa che sulla copertina Bowie è un essere mostruoso, metà cane e metà uomo, e i Diamond Dogs, cioè questi esseri metà cane e metà uomo, sono i sopravvissuti a una catastrofe che ha ridotto gli uomini alla condizione di cani in un mondo marcio e fatiscente, e sono terrorizzati dal futuro tecnologico alienante che relega l'uomo a una condizione di minorato mentale. E quindi di nuovo nelle canzoni di David Bowie torna una sorta di fantascienza particolare. Questo album, stiamo parlando appunto di Diamond Dogs, e dice, a detta di Bowie, è il primo album interamente registrato sotto l'influenza della cocaina, e nasce da caotiche session con l'ingegnere del suono Keith Harwood, e le tracce riflettono insomma questo disordine compositivo con funk, dance music, rhythm and blues, insomma veramente un capolavoro. E ne esistono tre versioni di questo brano, e io ho voluto proporre la prima, che è quella più ruvida, anche Ottavia era d'accordo con me, è quella più rock, perché c'è una versione fatta dopo, più breve, i 3 minuti, che ci piace un po' più ridondante. E il film invece che abbiniamo è un altro brutto film, e io sono contenta di parlarne male perché mi fa schifo anche proprio lui, cioè Ligabue. Brutto, brutto, brutto, brutta la musica, brutto anche lui fisicamente. Il film altrettanto brutto come lui era Radio Freccia del 98, diretto da lui stesso, ispirato a un libro che ha avuto un grandissimo successo e che gli hanno fatto fare pure questo film. E il film, paradossalmente, non si capisce perché, forse perché il nostro cinema sta finendo, è arrivata alla frutta, o almeno in quel periodo era arrivata alla frutta, e quindi non potevamo che avere, che meritarci Ligabue. Ha vinto, pensate, 3 David di Donatello, 2 Nastri d'Argento e 4 Jack d'Oro. E io rimango sconvolta. E poi ho scoperto che è stato proiettato anche negli Stati Uniti al MoMA, al Museo d'Arte Moderna di New York. Cioè, ci rendiamoci conto, mentre la gente qua si uccide, fa carte false per riuscire a prodursi un film, a autoprodursi un film, questo, capito, è arrivato in 448 e ha fatto il panico. E che vi devo dire, è quello che si chiama merdosa meritocrazia, credo. Comunque, insomma, all'interno di questo film c'era questo bellissimo pezzo. Vorrei parlarvi degli attori che hanno fatto parte di questo film, ve ne cito soltanto alcuni senza i quali il cinema italiano non sa proprio come fare: Stefano Accorsi, Serena Grandi e poi anche il grande Francesco Guccini, che però non è un attore, è un cantante, e quindi va bene anche così. Non vuoi annunciare un brano? Ah, certo, e questa, Carlo, è tutta per te, eh? È tutta per te, sta per arrivare After All. strip them gently, they don't like to fall. Oh, by Jingo. There's no room for anger, we're all very small. Oh, by Jingo. We're painting our faces and dressing in thoughts from the skies, from paradise. But they think that we're holding a secretive ball. Won't someone invite them? They're just tall children. It's all after all. Sad as the clown. Oh, my Jingo. So hold on to nothing and it won't let you down. Oh, my Jingo. Some people are marching together and some on their own, quite alone. Others are running, the smaller ones crawl, but some sit in silence, they're just older children. Questo era il brano After All di David Bowie e passiamo subito ad un altro brano. us together. We could steal time just for one day. Avete ascoltato Heroes di David Bowie, è un brano che dà il titolo al suo all'omonimo album del 77. Era proprio diciamo, questo brano proprio porta tutta l'energia di quel periodo. Il brano è un riferimento alla traccia Hero presente sull'album Neo del 75 della band tedesca Neo, che Bowie e Brian Eno ammiravano. Infatti in questo brano Brian Eno suona il sintetizzatore, e c'è da dire che anche la chitarra è di Robert Fripp, il grande chitarrista dei King Crimson. Questa è una delle composizioni più celebri di Bowie, scritta in un periodo in cui Bowie era in una profonda crisi, viveva a Los Angeles impietrito dalla cocaina e dall'alcol, ossessionato dalla magia nera. Nella rivista Uncut ricostruisce così quei giorni: con la mente alterata dalla cocaina, Bowie si convinse che due fan volevano impadronirsi del suo sperma per essere fecondati in un sabba in modo da propagare il satanismo nel mondo. Passava i suoi giorni scarabocchiando enormi pentagrammi sulle pareti di casa, conservando la propria urina nel frigo per proteggersi dai malefici, scolpendo enormi monoliti davanti alla TV. Visitandolo, gli amici John Lennon e Elton John si convinsero che fosse prossimo alla morte, e i suoi amici Elton John e John Lennon lo davano appunto per spacciato e prossimo alla morte. Poi l'eroe, il vampiro, con l'amico Iggy Pop, appena dimesso dall'istituto di igiene mentale, che coppia si trasferì a Berlino, dove per entrambi comincerà una nuova vita. Proprio a Berlino Bowie darà vita alla trilogia berlinese Low Heroes Lodger. Heroes è il secondo capitolo della saga, anche se viene registrato quasi parallelamente al gemello Low. Ovviamente di questa canzone, bellissima canzone, sono state fatte tantissime cover. Io ne vorrei citare un paio: quella di Philip Glass, che è interessante, ma soprattutto una cover di Aphex Twin, che praticamente ha fatto la cover della cover di Philip Glass, e quindi è un brano stranissimo, onirico, per me molto bello, che consiglio di andare a ascoltare. E io consiglio alle due ragazzine che avevano organizzato per rubare lo sperma a David Bowie di utilizzarlo, perché ci potrebbe venire utile adesso, insomma, in un futuro. Come ci potrebbero venire utilissimi i vostri contributi alla radio, che è sempre in difficoltà, è sempre in affanno. Potete contribuire facendo una sottoscrizione al conto corrente postale a 61804001, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma, oppure cliccando e dando un contributo attraverso internet, attraverso il sito della radio www.ondarossa.info, cliccando sulla voce sostieni. Potete usare la modalità PayPal con una carta di credito da casa, è molto facile. Potete anche venire in radio a trovarci e comprare la bellissima scarceranda, la nuova scarceranda, che è proprio qua, fresca fresca, ma adesso non proprio fresca fresca nel senso che è uscita da qualche giorno, ma insomma è ancora fresca e pronta a essere tutta scritta da voi. Non solo, ma ci sono anche delle nuove magliette bellissime, quindi vi aspettiamo, contribuite alla radio che ha bisogno del vostro sostegno per continuare a trasmettere libera e indipendente dal 1977, senza padroni, senza pubblicità. C'è la pagina Facebook di Tracce di Cinema, c'è la pagina sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Tracce di Cinema, l'indirizzo di posta elettronica tracce di cinema@ondarossa.info. La prossima settimana è techno, vero? Sì, roba forte. Roba forte. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Chiudiamo, David, con Absolute Beginners di David Bowie. Take.